I nostri farmaci sono prodotti sinteticamente e specificamente progettati per simulare il principale ormone maschile, il testosterone o l'ormone della crescita umano. Qui potrete acquistare in modo sicuro e anonimo steroidi anabolizzanti, ormone della crescita umano, peptidi o SARMS che sono molto popolari tra gli atleti professionisti, soprattutto negli sport competitivi come il sollevamento pesi o il bodybuilding.